This is Luciano in association with Soup Sound System and the Salenta family, paying honors to the brave pioneers who set sail in treacherous waters seeking for brighter shores. Shamamoy! Row, row, to Lampedusa we go. Go, go, for a better life we row. Yeah. Oh, Dolce Musa, put me a Lampedusa. Musa, bring me to Lampedusa. Oh, Dolce Musa, put me a Lampedusa. Oh, Dolce Musa, bring me to Lampedusa. Io son tu qui che sfida gli leoni, bruno deserto è la siccità. Io son tu qui che parla con le tigri a mezzo una savana sotto un babab. Io son tu fai omega che scise della valle nel paradiso. Popolao. Io sono tu creatore di danze e solitudini e su una zattera non sa già dove stai. The waters are turbulent, raging hard with the desperate. Brave souls seeking for betterment, putting their own lives in detriment. Leaving loved ones behind, hoping that they would find even a slice of paradise. Making the ultimate sacrifice. Da gente cancia ludi sa giornata. A sopra una barca la deriva e ne mandata. Perché fonte le guadagno per ci dice che l'aiuta. Ma è sullo sfruttamento per ci rischia la vita. E in un giorno migliore. Forte in mure mare. A sopra una barca c'è l'uscura mezza mare. E in un giorno migliore. Forte in mure mare. Lasciata ancora lunga a Lampedusa di mugliare. Visto tutti le immagini dell'ennesima strage in mare, a Cutro, in Calabria, non ci sono ovviamente parole per descrivere quello che è successo, ma cerchiamo però di capire come ci si sta muovendo e cosa possiamo fare. Lo chiediamo alla presidente dell'associazione Sabir, tra le prime a portare aiuti ai superstiti. Questa associazione è un'associazione appunto calabrese che da anni segue i temi dei migranti, dell'integrazione e aiuta soprattutto le famiglie e le persone in difficoltà, e quindi l'associazione è stata tra le prime a portare aiuti ai superstiti, e quindi andiamo a chiedere com'è la situazione in questo momento. Oggi, martedì 28, a Crotone la situazione è che purtroppo continua a crescere il numero dei morti. È notizia proprio delle ultime ore che è stato avvistato e trovato lo scafo della barca e si teme che ci possano essere quindi altri cadaveri. Nella notte sono stati trovati altri corpi, quindi al momento la conta delle vittime è arrivata a 63 persone decedute, fra cui appunto tantissimi bambini e tantissime donne. E, dopo i primi momenti, le prime ore, anche un di sgomento e di caos, si è messa in moto comunque la macchina dell'assistenza, sia le autorità che gli enti del terzo settore fortunatamente stanno lavorando in sinergia per prestare soccorso e conforto ai superstiti e purtroppo ai tantissimi parenti delle vittime che stanno arrivando da ogni parte d'Europa per riconoscere o per cercare congiunti che risultano ancora dispersi. A parte le vergognose dichiarazioni del ministro Piantedosi, come stanno gestendo le istituzioni, anche quelle locali, questa situazione, questa ennesima emergenza? Come enti del terzo settore fin dalle prime ore ci siamo messi subito a disposizione delle autorità, perché è giusto che nei primi momenti siano le autorità e le istituzioni a coordinare la macchina dei soccorsi e dell'assistenza. E, siamo stati allertati per poter fornire supporto e in questo momento ad esempio i nostri operatori, i mediatori culturali, gli psicologi stanno prestando assistenza ai superstiti. Ci siamo anche attivati come enti del terzo settore per fornire ai parenti delle vittime che stanno arrivando a Crotone accoglienza, cibo e conforto. Che responsabilità ha la politica per questa ennesima strage? E soprattutto cosa è cambiato, se è cambiato qualcosa con l'insediamento di questo governo rispetto al precedente? La responsabilità della strage di Crotone, così come di tutte le stragi che registriamo nel Mediterraneo, ai confini dell'Europa, sono tutte della politica. Sono della politica che impedisce i soccorsi in mare e che anzi li criminalizza. Sono della politica che non favorisce politiche di inclusione dei migranti e non favorisce vie sicure e legali d'ingresso. Il fenomeno delle migrazioni non deve essere trattato come un'emergenza. Non è un'emergenza, non lo è mai stata. È un fenomeno storico, ciclico, è un qualcosa a cui dovremmo abituarci quotidianamente e può essere anche una ricchezza sia per i paesi di provenienza che per i paesi di approdo dei migranti se questo flusso viene gestito in maniera consapevole e in maniera coscienziosa. Purtroppo così non avviene e alcune frasi fanno davvero rabbrividire. Non si impediscono le morti in mare impedendo le partenze, si impediscono le morti in mare favorendo vie sicure e legali d'ingresso in Europa per coloro che scappano da guerra, da malattie, da fame e da distruzioni. Che iniziative può mettere in campo la società civile per dare aiuto a questi migranti, per dare aiuto ai sopravvissuti? La società civile può fare tanto e deve fare tanto, la comunità deve farsi carico anche dei processi di integrazione e di accoglienza dei migranti, deve essere in prima fila nel favorirli, e lo Stato deve esserci e devono esserci anche gli enti del terzo settore che in queste ore si sono attivati ad esempio nel Crotonese, ma l'accoglienza deve essere gestita a livello comunitario, le comunità devono essere comunità accoglienti, comunità capaci di integrare i migranti che arrivano e soprattutto devono essere sensibili affinché simili barbarie come i respingimenti alle frontiere, i respingimenti in Libia e le morti in mare non avvengano più. Quello che soprattutto deve fare e può fare la società civile è far sentire il proprio sdegno. Non ci basta più piangere i morti, non è più sufficiente gridare al dolore e all'angoscia di queste ore, bisogna dire basta, queste cose non devono più succedere e infatti noi ci stiamo mobilitando, ho indetto una riunione proprio nei prossimi giorni con gli enti del terzo settore di Crotone e la provincia, ma in realtà stanno aderendo enti da tutta la Calabria e da tutta Italia per capire come far sentire quella nostra voce di sdegno, ma soprattutto come far sentire la voce di chi questa voce purtroppo non l'ha più perché l'ha persa nelle acque gelide del Mediterraneo. E allora ringraziamo la presidente dell'associazione Sabir, Manuelita Scigliano, per questa sua testimonianza. Invitiamo tutti gli amici, in particolare quelli calabresi, a mettersi in contatto con l'associazione Sabir. Trovate ovviamente tutti i recapiti online. E adesso ci andiamo invece a sentire un report dalla manifestazione di Napoli che si è tenuta ieri. C'è stata questa manifestazione della rete antirazzista di Napoli e abbiamo chiesto un report a chi c'era. Ce lo andiamo a sentire e poi continuiamo con la musica. Questa è Port Royal, tutti i mercoledì su Pirate Radio. Sono Edith Fatuma Tamaiga e vi parlo da Napoli. Oggi pomeriggio siamo scesi in piazza dopo i fatti di Crotone che hanno visto di nuovo le spiagge delle nostre coste italiane ricoprirsi di cadaveri, di innocenti che sono partiti da, in questo caso, la Turchia alla ricerca di un posto dove potersi ricostruire una vita in maniera dignitosa. Speravano di trovarlo in questo paese o perlomeno speravano di trovarlo in questo continente. Ma ahimè, quello che hanno trovato è stata la morte. Con me in piazza oggi, oltre a un centinaio di persone, c'erano anche l'avvocatessa Stella Arena e anche l'operatrice sociale Marilena Passaretti, che adesso prenderanno anche loro la parola. Salve, sono Arena Stella di origine calabrese. Questa tragedia accaduta proprio nei miei luoghi d'origine è un dolore incolmabile, però è un dolore che è frutto di politiche fatte dall'Europa e sicuramente se io ho una richiesta da fare, che non si indaghi solo sui presunti scafisti che pare siano stati identificati sull'imbarcazione andata in frantumi purtroppo nel tragico epilogo del viaggio dei rifugiati, dei richiedenti asilo, perché dico queste persone venivano dall'Afghanistan, quindi erano persone che scappavano dalla guerra. Parliamo di persone che scappano da situazioni indicibili e che cercavano dall'Italia, dall'Europa, una accoglienza che purtroppo non vi è stata, ma che si indaghi anche su tutte le vicende relative allo sbarco, su tutte le vicende relative ai soccorsi che dovevano essere apprestati a queste persone che in quel momento si trovavano in una situazione di pericolo. Noi sappiamo, perché vari giornali hanno detto, che l'imbarcazione era stata individuata ben più di 12 ore precedenti. Allora uno si augura che la procura del Tribunale di Crotone indaghi anche su queste vicende. Io sono Maddalena Passaretti e vorrei porre la questione sotto anche un altro punto di vista. Sarà interessante adesso capire il post, perché nel momento del naufragio siamo tutti solidali. Oggi però cosa accadrà alle persone sopravvissute? Devono finire di nuovo nelle more dell'asilo politico? Devono stare anche loro anni in Italia senza poter avere un permesso di soggiorno e vedendosi, oltre che dopo aver vissuto un'esperienza così drammatica, diritti negati, o verrà riconosciuto a loro uno status, un permesso di soggiorno che gli permetterà di vivere dignitosamente? Io è questa la domanda che oggi mi pongo, perché è troppo facile sdegnarsi di fronte a una tragedia, è troppo facile sdegnarsi mentre il mare porta a riva ancora corpi di persone morte, ma non dobbiamo abbassare la guardia, perché oggi bisogna capire e sostenere chi invece è sopravvissuto e ci chiede una protezione e ci chiede di ricominciare la propria vita qua in Italia. Io concludo semplicemente ricordando che quando nel 2013 ci fu il naufragio sulle coste della Sicilia, a suo tempo l'Italia aveva deciso di attivare l'operazione Mare Nostrum. Era un'operazione che era stata attivata solo dall'Italia perché in quel momento si riteneva che il bisogno riguardava solo l'Italia, ma ad oggi, alla luce del fatto che, come già dichiarato anche per esempio dalla Grecia e dall'Europa, a seguito del terremoto ci saranno nuovi arrivi. Noi quello che ci auspichiamo è che il Mare Nostrum, che fu istituito nel 2013, diventi una risposta a livello europeo. È questo che noi ci auguriamo. Sentiamoci. people laughing and skunking, skunking. Every people try to enjoy their life with good vibes. Down there, who really wear it? There is skunking, skunking, skunking. We're moving around this world. We're singing just like a bird. We're dreaming a better day where the people can live in freedom every day. Oh, sai o non lo sai perché salva ma gente mezzo umano. Oh, sai o non lo sai. Sai, sai, è come ti piace.